La macchina è normale, hanno avuto un anno un po' indietro, un po' di confusione, hanno perso un po', penso, la direzione con qualche problema in galleria del vento, di calibrazione, di tutto, quindi è normale che la macchina a oggi non sia una macchina vincente, ma siamo qui tutti quanti a lavorare nella stessa direzione, a lavorare tutti assieme e cercare di mettere Renault ancora un po' più competitiva e non so se vincere gare o vincere campionato, ma almeno lottare per il podio, per cose più normali che sicuramente la Renault merita. Sicuramente la Ferrari è adesso la macchina più competitiva e 22 piloti volevano guidare la Ferrari adesso. 2 anni fa, forse non so se 22, ma 15 volevano guidare una Renault perché era quella che vinceva. Alla fine vuoi guidare la macchina che vince e quest'anno non si sa mai. Adesso i test sembra che la Ferrari e McLaren continuano a essere veloci, ma questo può cambiare molto veloce in qualche test, in qualche gara, con un sviluppo buono di un altro team. Quindi il pilota vuole vincere. Sicuramente tutti faremo il massimo per avere una macchina competitiva.